Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Il Ferragosto lo regaliamo ai tifosi della Juventus per farli rivivere una cavalcata che comunque, al di là dell'ultimo atto, è stata meravigliosa, quella che ha portato la Juventus a giocarsi la finale di Cardiff, la seconda in tre stagioni, e questo è un valore sportivo che non può essere dimenticato e disconosciuto. Passeremo anche dalla notte di Oporto, da quel segnale dato alla squadra attraverso Bonucci. E poi, dopo tanti meravigliosi passaggi, non possiamo dimenticare quello di Barcellona. L'ultima notte, non la più bella per i tifosi bianconeri, però è andata così. Durante la stagione ci sono sempre momenti un po' di tensione, ed è giusto che ci siano, se no ci addormentiamo. E direi che questa tensione è venuta al punto giusto, al momento giusto. Al punto giusto, al momento giusto. Palla verso Dybala, poi il piazzato per l'1-0, eccolo il vantaggio Juve, con Piazza, sul rimpallo, su un pallone sporco, trova l'acuto, trova il tocco vincente, regala il sorriso a Nedved e a Bonucci. Una bella vittoria, indipendente del tempo che sono andato lì, l'importante è poter aiutare la squadra a vincere, poter aiutare la squadra a portare il risultato importante a casa. Buttare Maxi Pereira nel 1 contro 1, Alessandro, pallone morbido sul destro, a cercare il tocco per Dani Alves, 2-0, 2-0, 2-0, eccolo qui, il secondo squillo. Grande Gianmarco Ferronati in regia, io ho chiesto musica viva, vivace, pompiamo questa musica. Gianmarco Ferronato in regia, Giorgio Drugo il nostro autore, Edoardo D'Avezza in redazione. È chiaro che la notizia del giorno non è la Juventus, queste sono banalità, ma riguarda, e io continuo a cavalcare questa battaglia, Wayne Shaw, portiere del Sutton, ingiustamente licenziato, cui però è stato chiesto dalla Bild di posare nudo. Vabbè, lo so che volete parlare di Juventus, facciamolo, va bene. Allora, copertina dedicata alla Juventus, Juventus che salta oltre il Porto, oltre la grana Bonucci, sul cavallo della bravura di Allegri, del coraggio di Allegri. Mi viene in mente un vecchio detto: gente allegra ce l'aiuta. In questo caso si chiama Allegri Massimiliano, professione top coach europeo, e più che il cielo lo ha aiutato l'ex interista Teio, che si è fatto espellere dopo 27 minuti di gioco. È chiaro che lì la partita è cambiata, la difesa che aveva, non dimentichiamolo, i rientranti Barzagli e Chiellini, che se uno di loro due avesse alzato il braccio, magari su Allegri oggi faremmo degli altri discorsi. Bonucci era seduto su un trespolo in tribuna, si è contenuto dopo il primo gol di Piazza, invece ha esultato in maniera quasi rabbiosa al raddoppio bianconero di Dani Alves, e poi vediamo come va a finire. Resta che gente allegra ce l'aiuta. Allegri Massimiliano l'ha aiutato Teio, e oggi io la Juventus la vedo benissimo in Champions League. Massimo Zampini, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Cosa mi dici tu? Dico che era una serata secondo me molto importante, era un piccolo bivio, forse esagero nel definirlo così, però per vari motivi, questo, un po' di reazioni dei giocatori, insomma questo caso Bonucci emerso come raramente emergono nella Juventus, vai a Porto, l'ottavo di finale un po' trappola con una squadra esperta, in forma, ma apparentemente meno prestigiosa. E quindi secondo me c'era anche il rischio ieri che se le cose fossero andate male, non so, anche la stagione avrebbe preso magari una piega diversa. Mm. E invece ha vinto, al di là giustamente l'espulsione che è scontata molto, però ha vinto secondo me con personalità anche nei primi 27 minuti. E dopo ha strameritato, non e ha poi mai rischiato nulla. No, non ha mai rischiato nulla, tutt'altro. Il Porto informato bus davanti alla porta, felicissima espressione coniata da Mourinho, perché bisogna dare, bisogna rispettare i copyright. E la Juventus ha bussato per un po' alle porte di quel pullman, e poi, guarda caso, quindi è andata come da pronostico dei non scaramantici, Massimo. È andata come era andata con Cuadrado nel derby, in un derby ormai abbastanza lontano, come con Zaza che risolve la sfida a scudetto con il Napoli, come Morata diverse volte l'anno scorso, ad esempio con la Fiorentina, è entrato al posto di Dybala in finale di Coppa Italia, ma vado a memoria, finale di Coppa Italia con il Milan, è andata con i cambi di Allegri che entrano e decidono. Sì. No, Allegri lo sai, io sono con te in questa battaglia pro Allegri, ma resto convinto che la grandissima parte dei tifosi juventini, c'è la minoranza che è più rumorosa, ma la grandissima parte è stata più che convinta da Allegri. Sì, minoranza molto rumorosa, molto chiassosa e anche secondo me anche molto fastidiosa. In questa grana di Bonucci non so come verrà risolta, se verrà risolta credo di sì, trattandosi della Juventus abbiamo notato però una diversa dimensione della società Juventus, oppure no? Beh sì, secondo me questo, io devo dire che prima sentendo un po' il clima dei tifosi pochi erano contrari alla decisione, cioè tutti hanno apprezzato la decisione della società che si è mostrata ancora e possiamo vantarcene forte che prescinda dai top player eccetera eccetera. Chiaramente però, perché dico bivio? Perché se poi fosse andato male ne avremmo sentiti tanti dire non era il giorno giusto, sarebbe stato meglio farlo con l'Empoli. Però ecco, vista così ex post, ma devo dire in moltissimi anche ex ante, è stata una decisione giusta e comunque ha mostrato ancora chi comanda la Juve, che prescinde dai singoli. Sì, c'è chi vuole parlare di Andorra-San Marino, di San Marino-Andorra 0-2, magari lo facciamo un'altra volta. Massimo Zampini invece chiedo ancora questo. Ma i non scaramantici, quindi tu di quello che vuoi, fa lo scaramantico, quello non scaramantico, cioè, dove piazzi la Juventus? È un gioco che faremo dopo, sulla griglia, dopo aver visto il primo, mettiamolo venerdì di prove, fosse la Formula 1, dove metti la Juventus in questa griglia finale? Qui non utilizzo scaramantici. Io sono scaramantico se poi mi chiedi un pronostico se la vincerà o meno. Non mi azzardo. No, ma poi anche perché poi là veramente sono una serie di varianti impossibili, certo, in una coppa del genere. Decidono le stelle. Io sinceramente e presuntuosamente non ho squadre in questo momento con cui giocando non credo di fermarmi a giocare alla pari. Non ne ho. Allo stesso tempo devo dire, e non c'è alcuna scaramantia, ce ne sono 4-5 a cui non ritengo di essere superiore, e quindi secondo me uno Juve Atletico oggi è apertissimo, non saprei di non favorito, per non dire Real, Bayern, però ecco secondo me il passaggio clamoroso fatto in questi 2-3 anni ultimi, per non dire gli ultimi 5-6, è questo, che io due anni fa, anche l'anno scorso, ero a Torino per Juve Bayern, all'inizio mi sembrava un massacro, dicevo siamo troppo lontani. Sì. Oggi no, oggi sono convinto di andarmi a giocare, poi magari esco con l'Atletico, con chi sarà, però io sono d'accordissimo con te, lasciando stare poi il fatto che sei arrivato in finale con un centrocampo diverso e probabilmente più forte, che è una Juve che può ancora crescere, però io oggi sono con te nel metterla nell'elite nella ristrettissima elite del calcio europeo. Diciamo che se in quel ristorante da 100 euro Conte Dixit, sempre per rispettare il copyright, fosse un tavolo a quattro, io li farei sedere alla Juventus insieme alle altre. Sì, ti posso dire un'altra cosa, un'ultimissima cosa ti dico, e secondo me anche il centrocampo dobbiamo fare valutazioni un po' diverse rispetto a un mesetto, due mesi fa, perché pian piano ci siamo abituati a dire che, e ovviamente lo erano, Vidal, Pogba eccetera eccetera, lo sappiamo chi fossero, quindi inutile. Però io il Khedira e il Pjanic che sto vedendo in questo modulo con Marsiglio che entra e tutto, è cambiato molto. È cambiato molto altro che, ma diciamo che la normalità è questa, perché Khedira e Pjanic sono due super giocatori. Esatto. Quindi la differenza era quella, l'anomalia era quella precedente, non è quella che stiamo assistendo adesso. Ieri sera ho visto Cuadrado e Mandzukic dare qualche segno di stanchezza, e questo è uno dei dubbi che ci portiamo dietro, ma sarà interessante analizzarli. Grazie Massimo. Grazie a voi. Ciao, ti abbraccio. Allora, ciao. Massimo Zampini. Abbiamo valutato i fatti, abbiamo parlato con entrambi. abbiamo passato a loro una reprimenda da parte nostra, poi successivamente abbiamo condiviso una decisione con l'allenatore, che è leader dello spogliatoio non solo, ma è anche il responsabile. E come tale ha preso questa, o quantomeno ha proposto alla società questa scelta, e noi l'abbiamo condivisa. Però riteniamo che il caso sia chiuso. Bonucci è e rimane un grande professionista. Maurizio Crosetti in sosta tecnica a Madrid, vi svelo questo, sulla via del ritorno. Ciao Maurizio. È vero, buongiorno, ciao, ciao Carlo. Ciao, ti è andata meglio rispetto alla Juventus, guasto al charter, slitta rientro a Torino? Parlo sì, teoricamente sì, poi sai, finché non si arriva non si può mai sapere chi è andata meglio, in aereo. Sì, io un giorno faccio con te, porto avanti con te la mia battaglia a favore del portiere del Sutton, che è stato ingiustamente licenziato, ma sono altri argomenti questi. Perché? Sì. Perché ieri ti ho citato in lungo e in largo. Come dicevo prima. Come darti torto? No. Come dicevo prima, bisogna rispettare i copyright. Prima ho usato l'immagine, che poi userò anche con te, del tavolo al ristorante da 100 euro. Ieri ti ho citato in lungo e in largo perché hai aperto gli archivi di Stato bianconeri, no? Ci sono dei segreti che rimangono top secret per sempre. Ce ne sono altri che si celano dietro quello che tu hai chiamato un muro che improvvisamente diventa non più di cemento armato ma di vetro, e dietro si vede la Juventus nuda. Ora abbiamo sentito Marotta dire che no, tutto sistemato, tutto risolto. La chiave te l'ha data però per aprire quegli archivi di Stato in cui hai raccontato molti episodi piuttosto noti, ma anche prescritti se vogliamo, te l'ha data Allegri. Beh, sì, diciamo che lui ha trasformato il muro in lastra di cristallo, però dietro la lastra si è vista comunque una Juve con un bel fisico, Ah, una sì? Juve nuda, sì. Juve sì. Nuda sì, ma non dimetta, mica mollacciona. Quindi comunque lui comanda, le regole ci sono per tutti, si dice sempre, sembrano un po' cose retoriche, no? Frasi fatte, però io credo che fosse giusto comunque. Certo, se poi pigliava tre gol, oggi sarebbe stato difficile dire vabbè, ho tolto Bonucci lì in mezzo e abbiamo fatto acqua. Invece ha avuto anche la bravura, la fortuna di azzeccare alla perfezione i cambi. Quindi prima si è parlato di chi ha tolto Bonucci, ora si parla di chi ha messo Chiassa e Dani Alves, a dimostrazione comunque che lui è lucido e le sue scelte sa prenderle. Tra l'altro, dicevamo prima, Max Allegri non l'aiuta al Ciel, ma l'aiuta a Tello, che comunque si è fatto buttare fuori, perché è chiaro che il Porto a quel punto ha rinculato, si è messo davanti alla sua porta, e quindi la difesa ha corso meno rischi, perché poi tu immaginati cosa succede se a un certo punto Barzaglio o Chiellini alzano la mano toccandosi l'inguine, poi lì magari raccontiamo un'altra storia. Secondo te, da tutta questa vicenda e dalla partita di ieri sera, esce in qualche modo indebolita la Juventus per questa lastra di cristallo, rafforzato Allegri, o tutte e due le cose, o nessuna delle due cose? Secondo me, complice anche il risultato, sono tutti più forti. Sul campo la Juve ha confermato una forza europea, una dimensione europea, un'autorevolezza, una dimensione e varietà dei cambi che pochi hanno. Allegri ha confermato di essere forte, di avere lui il comando delle operazioni, e ha anche confermato che può fare a meno di un leader come Bonucci, almeno per una volta, perché poi si parla di Bonucci difensore, ma in realtà il vero problema dell'assenza di Bonucci è che non c'è il playmaker, e quindi i lanci lunghi da dietro non sono più. La Juve ne ha fatto a meno contro un avversario suicida, io credo ne sarebbe venuta a capo ugualmente il Porto nelle due partite, però certo ieri sera l'ex interista Telles ha fatto quello che nessuno poteva immaginare, cioè un regalo gigantesco ai bianconeri, che adesso tornano a casa sicuramente non solo con una qualificazione in tasca, ma con una robustezza complessiva. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tonight we are victorious, champion over us, all my friends with glorious, tonight we are victorious.